Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti. Ebbene, oggi parleremo di un argomento molto particolare, parleremo di questo aggettivo artigianale che ormai troviamo ovunque, lo troviamo nelle gelaterie, lo troviamo nelle birrerie, insomma lo troviamo nella pasta, lo troviamo nei salumi. Cosa significa? Ecco, andremo a vedere questo, numero verde 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666. Ma io la penso così. Sono solo parole. Ecco, mi sembra che sia molto ma molto chiaro il mio messaggio, però oggi vedremo di, come posso dire, di approfondire, perché di artigianale vero ce n'è molto in questo paese, ce n'è altrettanto forse di meno veritiero, e credo che questo screditi anche quello che c'è di vero. Quindi secondo me è importante, perché artigiano c'è una definizione anche, diciamo, professionale, e anche dal punto di vista legale, ma sulla parola artigianale, beh, insomma, qui si può vedere di tutto. E allora io voglio cominciare questo giro dalla pasta, e andiamo prima a Gragnano, andiamo dal presidente del consorzio della pasta di Gragnano, e poi avremo con noi anche Riccardo Felicetti, che è il presidente dell'Unione Pastai Italiana. Buongiorno Di Martino. Buongiorno, come va? Bene, grazie. Lei tutto bene? Tutto bene, giornata di sole ma fresca. Bene, allora le volevo chiedere, ecco, vediamo, per voi, cioè, i pastifici di Gragnano sono o non sono artigianali? Ma insomma, la definizione artigianale, come diceva benissimo lei, è una definizione che è determinata per legge, diciamo, ma noi a Gragnano ci interessiamo molto di più della percezione che ha il consumatore di quello che può essere un prodotto artigianale, che secondo me va al di là sia della definizione lessicale che della definizione strettamente giuridica del concetto. In genere un consumatore, un nostro cliente, ritiene che un prodotto sia artigianale se sia fatto con cura e, secondo noi, con una grande partecipazione delle scelte degli esseri umani. A Gragnano ci sono due anime, sono aziende che hanno rendimenti di scala più grandi, quindi grande, una produzione di volume più grosso, e produzione più piccola, con rendimenti di scala dei più piccoli. Sono sicuro che entrambe sono motivate da una capacità di fare un prodotto in maniera, diciamo, artigianale, cioè nel senso con un progetto di produzione artigianale. Ma le faccio l'esempio: nel mio caso ho due aziende, una di grandi rendimenti di scala e una con piccoli rendimenti di scala. Quella di grandi fa 1400 quintali con 27 dipendenti, quell'altra 20 quintali con 15 dipendenti. Quindi diciamo che le linee di demarcazione esistono addirittura all'interno delle stesse aziende, mi sembra chiaro anche questo concetto. Allora sentiamo Riccardo Felicetti, che è presidente dell'Unione Pastai Italiana, ma anche nonché un noto produttore. Io gli voglio chiedere, secondo lei, Felicetti, qual è la linea di demarcazione? Allora, innanzitutto buongiorno, buongiorno Davide e buongiorno al mio caro collega gragnanese. Qual è la linea di demarcazione? Secondo me la linea di demarcazione è più una linea di concetto che non di processo. Tante che l'evoluzione tecnica e tecnologica ha consentito a tutti, dai piccoli produttori di Gragnano, che ho visitato con piacere e con gioia solo un paio di settimane fa, fino ai grandi produttori sempre meridionali piuttosto che della pianura padana, di investire e di aumentare le loro produzioni e soprattutto di automatizzarle, quello che è importante è che rimanga l'arte che è insita nella produzione della pasta e che rimanga in qualche maniera proprietà esclusiva di ogni pastaio, perché noi abbiamo più di 150 aziende in Italia che producono pasta, e ognuna di queste ha all'interno della sua attività un'arte che cambia radicalmente. Pensiamo a quante centinaia di piccole attività quotidiane un pastaio deve mettere in atto per rendere stabile una produzione che altrimenti dipenderebbe in maniera sostanziale dall'evoluzione del grano, dai cambiamenti anche della temperatura esterna, della pressione atmosferica. Questo rende arte tutto quanto. Poi i volumi, le dimensioni creano standardizzazioni di processo che possono far percepire l'artigianalità di un prodotto in maniera diversa. tra la grande industria produttiva e il piccolo pastificio che fa le cose a mano o quasi a mano. Per cui secondo me è più una questione di concetto l'arte che non di processo. Bene, io la ringrazio Felicetti, lei è stato chiarissimo. Io volevo ricordare il numero verde 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666, perché vorrei sentire anche la voce del consumatore. Anche sul sito Gastronauta tantissimi interventi sono di produttori. Ma torno a Di Martino, visto che è presidente di un consorzio prestigioso, perché la pasta di Gragnano in questi anni ha avuto una crescita incredibile e diciamo è anche una percezione molto positiva da parte del consumatore. Ecco, voi all'interno del consorzio, cioè il discorso artigianale, ecco, l'avete discusso, lo metterete diciamo in pratica, ecco, come vi comporterete? Allora, guardi, allora, due cose. Prima di tutto quello che giustamente il collega Felicetti diceva, una cosa la riprendo, è anche questo discorso falsamente artigianale di essere a mano, tranne alcune piccolissimi tipi di produzione che necessitano davvero di un contatto con le mani della pasta. Già nel 500, nel 600, insomma, la pasta era fatta con un torchio, perché il grano duro aveva bisogno di pressioni tali da essere poter sviluppare solo attraverso un torchio, quindi attraverso una vite e un cilindro, insomma. E quindi il discorso della pasta fatta a mano, delle orecchiette o delle cose, sono delle piccole produzioni che veramente in pochissimo per pochissimo numero di formati vengono fatti, mentre la produzione all'interno del consorzio sì, si parla di artigianalità, abbiamo dei soci che hanno dimensioni più piccole e soci che hanno dimensioni più grandi, ma da sempre la storia di Gragnano è stata così. Bene, io ringrazio Felicetti e Di Martino, sentiamo Riccardo da Verona, un radioascoltatore. Sì, salve Davide, buongiorno. Buongiorno, prego. Ascolti, io volevo intervenire un attimo sul discorso del gelato artigianale, dove credo che la confusione sia massima ancora molto di più che sulla pasta, dove sono intervenuti i colleghi precedenti. Sul discorso del gelato artigianale credo che si stia perpetrando una piccola truffa in danni del consumatore, perché il consumatore è ignaro dei processi di produzione del gelato artigianale. Presumo che il gelataio parta dalle materie prime, le mescoli, le componga. In realtà poi nel 99% dei casi delle gelaterie artigianali i gelatai che cosa usano? Usano delle basi con dei componenti prodotti dalle grosse industrie, aggiungono del latte, aggiungono delle paste di pistacchio, di nocciolo, quant'altro, sempre prodotte da grosse industrie, e non agiscono nemmeno dal punto di vista della quantità d'aria piuttosto che della consistenza, perché le macchine del controllo elettronico delle varie aziende, che tra le cose italiane sono le migliori, agiscono sulla consistenza del gelato e tutto il resto. Per cui il discorso del gelato artigianale, forse si potrebbe diciamo fare una piccola parentesi sul discorso chi usa frutta fresca e chi no, anche lì è una piccolissima mia. Riccardo, guardi, questo lo vedremo, avremo diciamo gelatieri, avremo anche esperti su questo, sul gelato. La ringrazio perché lei ha già lanciato questa palla. Passo la linea alla regia, torneremo fra poco. Il gastronauta. Sono solo parole. Sono solo parole. Ecco, ripetiamo questo ritornello, perché io la penso esattamente così e lo dico per l'ennesima volta. Ricordo, numero verde 800 24 00 24. Sentiamo Giovanni dalla provincia di Napoli. Buongiorno Giovanni. Buongiorno. Prego. Secondo me l'aggettivo che hanno usato, o meglio il termine che hanno usato sia Di Martino, che peraltro conosco, sia Felicetti, in termini di percezione, è un po' riduttivo a mio avviso, perché la percezione di artigianalità non si capisce bene cos'è. Si può dire per esempio in alcuni prodotti come il gelato, che o il gelato in altre cose che non siano la pasta, aggiungendo degli aromi non naturali ma anche sintetici, per cui alla fine ho l'idea di mangiare qualcosa di buono, di gustoso, anche fatto in maniera artigianale, però di fatto non lo è, per cui io credo che non bisognerebbe ridurre l'artigianalità alla mera percezione di qualche cosa. Beh, ma l'artigianalità in quanto arte è anche fatta da processi di lavorazione sedimentati e studiati per anni dai nostri avi. Bene, io la ringrazio. Leggo la definizione di artigiano del, diciamo, dal vocabolario: chi esercita un'arte manuale per proprio conto o in locali propri, lavorando da solo con la collaborazione dei familiari o di pochi aiutanti. Bene, abbiamo con noi un noto pasticcere, ma anche il presidente onorario dell'Accademia dei Pasticceri, sempre che molto chiaro, dice sempre vino al vino e acqua all'acqua. Buongiorno Igino Massari. Buongiorno a tutti voi. Igino, io volevo chiederle, secondo lei c'è una demarcazione netta tra pasticceria artigianale e pasticceria industriale? Beh, la demarcazione c'è, perché nelle produzioni industriali generalmente sono delle monoporzioni lineari, dove c'è un'attenzione alla quantità e generalmente non alla nicchia di mercato. Ovviamente non perché uno ha il marchio di artigiano ha il marchio di essere un mito, che generalmente non si discutono mai, i miti sono inimitabili, ma il marchio dell'artigiano non è senz'altro il marchio che decide che uno fa qualità. Per fare qualità bisogna essere uomini di qualità e conoscere il mestiere. Possedere il mestiere dell'artigiano pasticcere, specialmente in questi tempi, vuol dire essere un uomo che è pieno di energia, di morale, e può diventare, anche delle ultime parole che ho sentito, artista artigiano. Il mestiere della pasticceria a tutto tondo è formato da tre ingredienti di base, che è conoscenza, passione e creatività, e questa professione può dare è un punto di forza e un esempio dell'economia italiana di questo tempo. L'industria non è, facendo quantità, deve accontentare un sacco di massa e deve contenere i prezzi. Non è che l'industria non può fare qualità, è una scelta obbligatoria per essere sul mercato ad avere dei prezzi contenuti, perciò la scelta delle materie prime non è sempre così straordinaria. Bene, Igino, abbiamo con noi Alberto Viale, che è presidente dell'azienda Bistefani e quindi che produce pasticceria. Voglio chiedere ad Alberto Viale qual è secondo lui la linea di demarcazione tra artigianale e industriale. Buongiorno Alberto. Buongiorno, buongiorno a lei. La linea di demarcazione è proprio, parlo per la mia azienda, è proprio data da una cultura aziendale che nasce dalla pasticceria, perché le aziende, la mia azienda, parlo della mia azienda perché è quella che conosco bene, è nata da una tradizione pasticcera locale di Casale Monferrato per produrre i crumiri, che sono una specialità tipica della nostra zona, della nostra città, e da lì già mio papà, che fu fondatore, ha sempre insegnato e voluto che anche tutta la tecnologia che veniva applicata per migliorare il ciclo produttivo, ridurre, come diceva prima il presidente, i costi di produzione, fossero in funzione della ricetta, le macchine costruite apposta per non dover modificare mai la ricetta dei nostri prodotti. Noi per esempio produciamo anche da sempre il panettone, e mio papà ai tempi arrivò da Milano un bel giorno, io ero ancora bambino, da Milano, lui tornò da Milano, era andato a far visita ad Angelo Motta, il quale gli aveva regalato un pezzo di madre, di lievito madre, che noi chiamiamo la mamma. Questo lievito madre è ancora vivo, è ancora in azienda, oggi, anche oggi che è sabato e domani che è domenica, c'è un lievitista che tre volte al giorno va a dargli da mangiare e bere, che vuol dire impastarlo con acqua e farina, con una farina speciale, acqua non clorata, perciò acqua non dell'acquedotto, perché non sia, appunto, non muoia questo lievito e mantenga sempre l'aroma e il profumo, che poi trasferisce alla pasta del panettone, pur mettendoci dentro ingredienti con gusti diversi, come tutti, l'uvetta, le scorze d'arancio, di cedro, candite, però la friabilità della pasta e il sapore quando si taglia la fetta del panettone è dato proprio da questo lievito. Senta Viale, però dobbiamo ammettere che la grande quantità, diciamo, deprime un po' la qualità. La gra- grande quantità deprime la qualità, se anche noi abbiamo dovuto rinunciare a rincorrere il prezzo del panettone, perché lei sa che nei prodotti appunto di ricorrenza ci sono delle guerre di prezzo, di costo e di prezzo che sono incredibili. Non è che questi prodotti abbiano materia prima scadente, purtroppo hanno subito negli anni un'accelerazione nel ciclo produttivo e nella lievitazione e nelle fasi di lavorazione, perché la pasta lievitata necessita, i pasticceri veri lo sanno, necessita dei tempi di riposo tra un ciclo di impasto e quello successivo. Per ridurre questi cicli sono stati fatti impianti diversi con tecnologie diverse che hanno un po' così, hanno reso questo prodotto più simile a un pan carré dolce con poi uvetta e canditi che ne danno il sapore. Ha perso questa caratteristica invece che è data da questo lievito madre, che è una alveolatura piuttosto disomogenea, con dei buchi di all'interno che sono disuguali uno dall'altro, e con appunto questo sapore tipico del lievito madre, che invece è il lievito compresso che viene usato solitamente adesso dalla grande industria, non dà. Bene, grazie Viale, la ringrazio molto. Sentiamo Dino dalla provincia di Pisa, un radioascoltatore. Buongiorno Dino. Buongiorno, sono Dino Martelli, sono un piccolissimo produttore di pasta. Beh, insomma, piccolissimo, la conosciamo bene, ma noto però, prego. Senta, io vorrei, cioè concordo pienamente con quello che è stato detto finora, la cosa è molto interessante. Però in un periodo in cui cerchiamo tutti di avere i vari termini, DOC, IGP, eccetera, io sostengo che il termine artigiano o artigianalità è molto inflazionato. Basta vedere la pubblicità di un grosso mobilificio in queste settimane in cui si qualifica artigiano della qualità, per dire quanto è inflazionato questo termine. Quindi io direi questo, ci sono anche delle grosse aziende, delle grosse aziende pastarie che fanno oltre 2000 quintali, che scrivono in bella evidenza sulla loro confezione lavorazione artigianale, e questo non mi sembra giusto, perché ritengo che indipendentemente da tutte le caratteristiche che può avere una piccola azienda rispetto alla grossa azienda, e quindi spazio c'è per tutti, però mi sembrerebbe che nei confronti del consumatore ci fosse chiarezza su cosa si identifica l'azienda Bene. Artigiana. La ringrazio molto Martelli di essere intervenuto. Io vorrei tornare a Iginio Massari, volevo chiederle appunto la pasticceria. Diciamo che il numero dei pasticceri definiti artigiani è molto cresciuto, Iginio, nel tempo, e ci sono molto, molto bravi in giro per l'Italia anche. Lei pensa veramente che, cioè, quello che dichiarano sia reale, cioè che ci sia dietro la manualità, la creatività di cui lei ha parlato prima? Ma le posso dire che non si può più pensare all'artigiano che c'era all'inizio del Novecento, cioè tutto manuale è vero fino a un certo punto, nel senso che certe volte per fare certi prodotti serve energia. Ma ritornando al panettone cosiddetto artigianale, che mettono in mono dei gliceridi, che mettono i conservanti, perché sennò non possono fare commercio perché la durata è limitata a 40 giorni, non è un panettone artigianale. È un panettone con esigenze industriali, magari lo farà anche un artigiano, e è ovvio che se non c'è la conservazione di certi prodotti non si possono fare questi prodotti, e a livello qualitativo io determino che incidono anche sulla salute. Bene. Anche se è consentito dalla legge, perciò sarebbe una bella battaglia a discutere su questo. La ringrazio, perché questa è una cosa che prima o poi sarebbe, come si può dire, emersa. Linea alla regia, torneremo fra poco. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di questo aggettivo artigianale. Artigiano. Sentiamo Matteo da Milano. Buongiorno Matteo. Sì, buongiorno. Prego. Buongiorno a tutti. Io volevo provare a dare una definizione di artigianale, a porre una sorta di discriminante tra cosa è artigianale e cosa non lo è, partendo dal forse per contrapposizione, dal mondo dei prodotti industriali è industriale ciò che è sempre uguale a se stesso, no? Che per un processo produttivo esce sempre identico a se stesso nel peso, forma, colore. Forse artigianale, allora, al contrario, è ciò che non è mai come prodotto finito uguale a se stesso, perché l'intervento dell'uomo è determinante, indipendentemente dal fatto che si usino macchinari o meno per produrre. Ma la scelta degli ingredienti, la scelta, il peso degli ingredienti è determinante poi in questo caso, quindi l'intervento dell'uomo per avere un prodotto che differisce poi ogni volta per lievemente, per gusto, per dimensione. Bene. Per colore. Matteo, cioè, diciamo che concordano con lei anche molti SMS, industriale uguale standardizzazione del processo, l'artigiano non fa due pezzi uguali, Daniele da Bergamo. Poi c'è un'altra che secondo me è molto vaga: per poterlo qualificare come artigianale un prodotto alimentare dovrebbe essere realizzato esclusivamente da azienda iscritta all'albo delle imprese artigiane. Vabbè, e poi se il processo all'interno non è così, come si fa a capirlo, caro Andrea da Venezia? Bene, e io chiederei ora Davide Longoni, che è un panificatore di Carate Brianza, cosa si distingue un panificatore artigianale da un panificatore che non lo è? Buongiorno Davide. Buongiorno Davide. Allora, a questa domanda rispondo con un... Io sono un artigiano e per quello che riguarda il mio lavoro io tutti i giorni compio scelte artigianali. Da una parte acquistando materie prime, dall'altra parte utilizzando tecniche artigianali. Cosa vuol dire? Materie prime, io acquisto farine naturali, cioè non modificate, non semilavorati, acquisto frutta fresca e verdura fresca, acquisto burro di fattoria e non semilavorati comodi e pratici, e tutte queste mi complicano la vita perché non ho mai prodotti uguali, come diceva prima Matteo, però d'altra parte mi mettono in gioco la mia professionalità. Perché grazie alla tecnica io riesco a trasformare queste materie prime in un prodotto diverso, il pane, i dolci, i lievitati e i prodotti da forno. E in questa maniera c'è il senso del lavoro dell'artigiano. Io ho una lista ingredienti brevissima, quindi solamente materie prime, punto. Non ho coadiuvanti o additivi, io non uso le varie E, le 300, le 472, i miglioratori, i coadiuvanti. E questo per me è il lavoro artigianale, che poi non c'entra nulla con la scala, l'essere piccolo, l'essere un grande artigiano oppure una piccola industria, perché qualora anche una piccola industria utilizzasse solamente materie prime e una buona tecnica potrebbe paradossalmente essere artigianale, invece quando un piccolo artigiano usa un semilavorato, certo, per me quello è un prodotto industriale. Bene, mi sembra che ci sia molta chiarezza su questo intervento. Ricordo il numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Sentiamo Barbara da Milano, una radioascoltatrice. Buongiorno Barbara. Buongiorno. Prego. Ascolti, io seguo la vostra trasmissione anche per altri argomenti. Sì. Nello specifico io farei una differenza dove artigianale lo possiamo attribuire in senso più normale, più conosciuto della parola, al prodotto fresco, quindi la pasta fresca indiscutibilmente artigianale. Ma quando parliamo di prodotto secco non c'è possibilità, è comunque industriale per i cicli di produzione, per i cicli di essiccazione, eccetera, eccetera. A prescindere poi il prodotto industriale, soprattutto quello delle grandi case, dà garanzie di cicli di produzione, di come si lavora, di norme di sicurezza e anche di qualità di materie prime che vengono utilizzate. Una grande casa dà garanzia anche sul tipo di farina, su come viene usata. Direi senza dubbio un buon prodotto industriale. Così è per la pasticceria. Un conto sì. Il pasticcere sotto casa, che più o meno conosci, e un conto è la pasticceria. Io prendo per esempio il discorso dei gelati. Indiscutibilmente gelati industriali danno garanzia sia sulla qualità degli elementi usati, sia sulle scadenze, sui cicli di produzione, sull'igienicità, cioè è Bene. Tutto un altro mondo, è molto difficile. Bene, grazie Barbara, abbiamo capito esattamente appunto la sua distinzione, qual è, le sue preferenze, quindi sicuramente sono ben decise e ben motivate. E io vorrei chiedere anche, abbiamo in linea con noi Nicolò Savigni. Nicolò Savigni è un bravissimo macellaio, nonché produttore di salumi, e lui la macelleria si chiama Macelleria Artigianale Savigni, di località Pavana, in comune di Sambuca Pistoiese, forse si dirà Pavana, comunque ora sentiamo Nicolò. Nicolò, perché definisce la sua macelleria artigianale? Allora, buongiorno a tutti. Allora, noi si definiamo la nostra macelleria artigianale perché partiamo innanzitutto da una materia prima che è stata allevata prevalentemente da noi secondo una tecnica artigianale, cioè secondo noi alleviamo i nostri maiali e vitelli allo stato semibrado, quindi diciamo come veniva fatto un tempo, utilizzando le tecniche tradizionali, quindi nessun ristallo o nessun tipo di inseminazione artificiale sugli animali e tutto. E poi tutto ciò che è la lavorazione la facciamo come veniva fatta una volta, diciamo secondo le tecniche che ci hanno passato i nostri genitori, i nostri nonni, utilizzando solo prodotti diciamo naturali, quindi il sale, il pepe e le spezie. Lei non usa conservanti o altro dentro i suoi prodotti? Allora, noi usiamo il minimo consentito solamente negli insaccati, questo per garantire al consumatore. Noi lavoriamo con metodo biologico, quindi se dobbiamo essere quel minimo di conservanti che utilizziamo deve essere secondo quanto previsto dal nuovo regolamento del biologico. Però questo è a garanzia dell'assenza certa di listeria, salmolina, salmonella, escherichia coli e botulino. Quindi serve perché il nostro prodotto viene venduto a un pubblico, quindi non è un prodotto che viene mangiato solo in casa nostra, e dobbiamo garantire ai nostri clienti la conformità e che non sia soggetto a patologie che potrebbero creare problemi. Bene, io la ringrazio Savigni di questa sua così precisa, di queste sue precisazioni. E ora c'è Mauro dalla provincia di Roma, un radioascoltatore. Buongiorno Mauro. Buongiorno Davide. Prego. Io vorrei fare una domanda. Sì. Allora, io ho un pastificio, un piccolo pastificio, la Brava di Artigiani di Parma, no? Noi facciamo 300 kg di prodotto fine orario, pastorizziamo, surgeliamo e facciamo il superfresco. A mano facciamo giusto qualche cosina. Le materie prime, delle cose, non abbiamo derivati nulla. Io i carciofi si comprano i carciofi, le carote sono carote, cioè non siamo colpi di niente. Possiamo dire che noi siamo degli artigiani. Ma guardi, io lo chiedo a Loris Molin Paradella, anche se lui sicuramente si occupa di gelati all'interno appunto dell'associazione, presidente della Confartigianato Imprese Gelatieri, però sicuramente un qualcosa ci può dire, vero Molin? Sì, buongiorno, ciao Davide. Ma allora, innanzitutto io vorrei dire una cosa, che si parla appunto tanto di artigianato, ma ci si dimentica che esiste una legge sull'artigianato, che è la 443, che è abbastanza chiara. Che poi venga disattesa, questo è un altro discorso, perché per esempio si dice chiaramente che possono chiamare artigianali i prodotti le imprese che sono iscritte nell'albo degli artigiani e che devono avere certe caratteristiche. Questo per quanto riguarda il discorso del tipo di azienda, no? E ci sono dei parametri che sono relativi alla dimensione, alla lavorazione non in catena, al numero degli addetti e così. Per quanto riguarda invece diciamo la qualità artigianale, lì siamo abbastanza scoperti, perché in realtà non mi risulta esistano delle regole ben precise per quanto riguarda poter definire un prodotto artigianale o meno. Mi spiego meglio, potrebbero esserci benissimo, parlo del mio mondo delle gelaterie perché non voglio pontificare su cose che non conosco, per esempio potrebbe essere delle gelaterie iscritte tranquillamente all'albo che però fanno un gelato che di artigianale non ha niente, ok? Allora, come abbiamo cercato noi di sopperire, visto che non si riesce ad avere una legge sul gelato? Abbiamo fatto in modo di creare un disciplinare di produzione che si chiama artigelato, dove viene definito, cioè, come è fatto il gelato artigianale secondo la tradizione. Chi siamo noi, punto di domanda, l'abbiamo fatto assieme con Fartigianato e CNA, con l'aiuto di maestri della gelateria di livello, di primissimo livello, tipo Luca Cavietel, Carlo Pozzi, in collaborazione anche con l'Unitas, l'Associazione dei Gelatieri Italiani in Germania, ed è nato questo disciplinare. No. Ecco, il problema poi lo affronteremo anche dopo, è appunto questo, cioè chi lo segue e come si fa a controllare chi lo segue. Comunque rimani con noi, ora sentiamo William dalla provincia di Trento. Buongiorno William. Buongiorno, io sono un ristoratore albergatore di Folgheria, provincia di Trento. Volevo portare la mia testimonianza, specialmente nel mio ristorante, il Fenile, e nei miei alberghi. Dal 2004 abbiamo fatto la scelta di fare il pane in casa con il lievito madre e tutti i dolci. Volevo testimoniare che anche nella ristorazione di non altissimo livello, alberghi non di lusso, si può raggiungere un ottimo risultato e i clienti sono contenti. Noi diamo il pane anche il giorno dopo e ci chiedono come facciamo a farlo. Abbiamo i clienti che ci chiedono di fare il pane e se lo portano a casa. Bene. Purtroppo invece vedo che nei panifici arriva tutto pane industriale premiscelato. Volevo dire che la passione e la voglia. Certo. Questa secondo me è un'osservazione molto importante, perché anche a Milano succede questo. Comunque, linea alla regia, torneremo fra poco. Rimanete con noi. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di questo aggettivo artigianale. Bene, abbiamo sentito panettieri, pasticceri, pastai. Bene, ora stiamo sentendo anche il discorso del gelato. Abbiamo sentito Loris Molin Pradel che ha parlato di questa, diciamo, disciplinare che si sono dati i gelatieri. Però io vedo un proliferare di scritte gelato artigianale che devo dire che è abbastanza inquietante. Voglio chiederlo a Roberto Lapira, direttore del Fatto Alimentare, che molto attento a queste cose. Buongiorno Lapira. Buongiorno a tutti. In effetti sono tutti artigiani, è una cosa incredibile. Lei trova una gelateria di un artigianale? No, tutti sono artigiani ormai. Una volta si tramandava dal gelataio al garzone, imparava, adesso invece ci sono le aziende che propongono semilavorati, e sono diversi tipi di semilavorati, che fanno dei corsi e alla fine si prende l'attestato di gelataio, ma non è una questione. Uno impara a fare il gelato e poi l'azienda gli fornisce un semilavorato e poi la persona che ha fatto il corso lo condisce, lo completa come vuole. Tutti gli artigiani, il 90% degli artigiani sono frutto di questa scuola. Qui il boom dei gelati artigianali è frutto di questo meccanismo virtuale e virtuoso, che non è che sia negativo, parliamoci chiaro, però facciamo del distinguo. Prego. Perché? Perché è come quando si prendono i semilavorati di torte pronte al supermercato, no? Cioè la farina, lo zucchero e il lievito. Quello che conta però non è tanto il semilavorato, è che se dopo ci metti il burro, se ci metti la frutta, se ci metti il cioccolato, il cacao. La torta è quella, non è il semilavorato. Per cui queste aziende qui propongono diversi tipi di semilavorati. C'è chi dà una base, un minimo fatta di emulsionanti e poco altro, aromi. C'è chi dà un gradino in più, una base più un semilavorato, quasi definitivo, a cui aggiungiamo poche cose. E c'è poi il terzo livello di semilavorato, che in pratica è il gelato pronto, la polverina, diciamo così, a cui ci aggiungi il latte, metti nel mantecatore ed è pronto. Questa differenza è difficile da capire. Certo. Dall'insegna o dall'elenco degli ingredienti? Certo, ma l'insegna molte volte appunto tradisce. E io voglio chiedere a Guido Martinetti, che è Grom, perché lui non si definisce artigiano? Non vedo nelle sue gelaterie scritto artigianale, gelato artigianale. Perché, Guido? Buongiorno Davide, buongiorno a tutti gli ascoltatori naturalmente. Non c'è un motivo preciso, nel senso io non la trovo. Il payoff della mia azienda è il gelato come una volta, e all'intenzione di richiamare la stagionalità delle materie prime, l'attenzione per l'agricoltura e l'assenza di additivi. Questo è quanto ritengo più qualificante per me. La mia attività in termini di diciamo di aspetto artigianale credo lo sia molto fortemente in questi termini, appunto per quelli che citavo, per l'assenza di additivi e per la stagionalità della materia prima, l'agricoltura. Certo è che oggi i volumi della mia produzione non sono quelli identificabili per un artigiano, ma questo per me non è particolarmente rilevante. Per me è rilevante la qualità in agricoltura. E voglio tornare a Loris Molin Paradel per il discorso appunto di questo disciplinare che, non so, in quanti l'hanno accettato? Allora, il disciplinare diciamo, è uscito da pochissimo. E dopo vent'anni dopo vent'anni di trattative però. Beh, non vent'anni, ma comunque quasi una decina, sì, no? Ma diciamo non sono stato tanto trattativi sui contenuti quanto sulla forma da dare, perché eravamo partiti con l'idea di promuovere un STG, una specialità tradizionale garantita, no? Con un marchio riconosciuto dall'Europa. Poi ci sono stati messi paletti fra le ruote, insomma siamo arrivati anche su consiglio di esperti a scegliere questa via del marchio collettivo certificato, e certificato da chi? Da un ente terzo, per cui è vero che al momento sono meno di una decina, perché siamo appena partiti, ce ne sono sicuramente qualche migliaio che possono prendere questo marchio. Ecco, però, e noi consumatori come faremo a saperlo questo? Cioè, ci sarà un marchio esterno? Ci sarà questo marchio artigelato, che tra l'altro tengo a sottolineare una cosa abbastanza importante, che è stato questo marchio diciamo condiviso anche con l'associazione dei gelatieri italiani in Germania, che sono fra virgolette una potenza, che sono quelli che hanno portato il gelato nel mondo alla fine fuori dall'Italia, e chi avrà questo marchio non l'avrà perché gliel'ha dato un'associazione o perché l'ha comprato al tabacchino o cose, ma perché è stato attivato da questo ente certificatore terzo che è il CSQA, iscritto al SINCER, e che quindi trattasi di cosa seria. Bene. Chiaramente è molto facile dire io faccio questo, io faccio l'altro, io compro di qua, io compro di là, ma bisogna dimostrarlo. Bisogna dimostrarlo, e noi certo. Abbiamo trovato questo canale per poterlo dimostrare. Siamo bene. Pochissimi, ma siamo convinti di aver seminato bene. Bene, bene sapersi, quindi sono 10 per ora. Paola da Milano, una radioascoltatrice. Buongiorno Paola. Buongiorno a lei. Senta, io volevo innanzitutto... Breve perché gli do 30 sì. Secondi. Ok, allora purtroppo il consumatore pensa che il gelato artigianale sia innanzitutto quando vede il gelatiere fare il gelato dentro la macchina al maticatore praticamente. La realtà è che il gelato artigianale non è fatto dalle classiche paste che vende l'industria e poi viene gelato. Quello non vuol dire essere artigiani. Artigiani vuol dire partire dalle materie prime, partire dal latte, partire dal burro, partire da tutte queste cose, dalla panna e così via. Purtroppo finché non ci sarà qualcuno che specifica bene queste cose comunque al consumatore, per il consumatore artigianato vuol dire comunque fare gelare la miscela. Bene. Una miscela già pronta magari, non fa niente, l'importante è che si geli. Questo praticamente per il consumatore vuol dire artigianato. Grazie, io chiedo a Roberto Lapira, gli do un minuto, se cosa ne pensa di questo intervento. Allora voglio dire che l'amico Grom è il più bravo industriale che fa gelato come l'artigiano, ma non è un gelato artigianale, è un gelato che secondo me ha delle criticità, perché non viene fatto nel posto, nei singoli posti, poi non ha emulsionanti, per cui non è molto cremoso, per cui è un ottimo gelato industriale artigianale, va bene così? Beh, sentiamo subito Martinetti allora. Non è esatto quello che è stato detto, nel senso che il gelato viene mantecato in ogni gelateria, se tutto il processo della miscelazione degli ingredienti e la successiva mantecazione è utile a definire il concetto di artigianale, questo non è così nel mio caso, ma ripeto, lo ritengo poco interessante, ritengo che sia la qualità del prodotto che identifica la sua artigianalità in qualche modo. La Pira, 30 secondi. Non ne uso emulsionanti, è poco cremoso, è un buon gelato, diciamo da 7 all'8, io sono un appassionato, lo seguo da 30 anni sto venendo qua. Beh, insomma 8 è un bel voto a scuola. No, perché i gelati migliori hanno 9-10, questo è il problema, l'artigiano che sa fare bene il suo mestiere e usa degli ingredienti. Quanti sono secondo te gli artigiani veri? 5-8%. Ecco, quindi andiamo io a Milano ne conosco la metà. Bene. Loris Molin Prede, lei è d'accordo su questa percentuale? Ma guardi che quando ho avuto modo di leggere quello che ha scritto il dottor Lapira sul Fatto Alimentare, mi sono detto qui finalmente leggo qualcosa di qualcuno che si è preso la briga di studiare bene il problema. Condivido un buon 95% di quello che lui sostiene. Quindi mi piacerebbe avere un giorno un confronto con lui, perché ci sono forse alcune cosette che... Quindi andrebbero... il 95% anche secondo lei, secondo la statistica di Roberto Voglio Lapira... un po' più buono, che un 10%, 10-12%. Bene, questo farà contento molti consumatori che vanno dove c'è scritto gelato artigianale. Devo chiudere, ma devo dire che è stato molto interessante, però voglio chiudere con una cosa. Prego, la regia. Ecco, secondo me... naturale, artigianale, purtroppo oggi sono solo parole perché sono poco controllate. Questo è il punto. Ci sono tanti che sono onesti su questo, ma ce ne sono altrettanti che non lo sono. Io vi do appuntamento domani alle 18 con la replica di questa trasmissione, poi con il gastronauta e le pillole ogni giorno dal lunedì al venerdì, e domani con Riposo del Guerriero.